in primo piano. Buongiorno Betta. Buongiorno Irene, allora le notizie incombono e soprattutto la Cina che svaluta le borse, ma anche il caso dei profughi, il caso dei migranti, insomma Irene, questi sono gli argomenti che sono sui giornali questa mattina. Noi ti seguiamo fino in fondo perché non faremo mai in tempo a leggere tutti i quotidiani, quindi è un compito che tu fai benissimo e ti seguiamo. Buona lettura Betta. Allora, buon proseguimento poi anche a te e diamo il benvenuto a Nicola Graziani dell'agenzia AGI. Buongiorno. Buongiorno. Che sarà con noi per commentare le notizie sui giornali e iniziamo proprio dal nostro giornale, Il Sole 24 Ore. La Cina svaluta e scuote le borse, la mossa di Pechino spaventa i listini, Milano perde l'1,12%, Francoforte il 2,68%. Stesso titolo anche su Repubblica. La Cina svaluta, tremano i mercati, Atene c'è l'intesa. La mossa di Pechino per rilanciare il suo export, Tsipras, accordo con i creditori, venerdì il sì dell'Unione Europea. Anche il Messaggero titola sulla Cina che svaluta, guerra dei cambi, Pechino deprezza lo yuan sul dollaro e aiuta le esportazioni, borse giù, tonfo dell'industria tedesca, Grecia, intesa con i creditori, 85 miliardi per il terzo salvataggio, l'impegno d'Atene, 35 riforme. E questi sono i titoli sulla Cina, mentre il Corriere della Sera preferisce aprire sui profughi, nuova strage e si apre il fronte greco, naufragio in Libia, decine di morti, Movimento 5 Stelle e Lega, linea dura. La Stampa, l'Europa restituisce 12.000 migranti all'Italia. Emergenza sbarchi sulle coste greche, scontri a Kos. E libero invece, vietato il Vaticano, vietato ai profughi, Papa e Vescovi attaccano chi non è disposto ad accogliere tutti gli extracomunitari, ma le regole della capitale della cristianità in materia di cittadinanza, residenza ed espulsioni sono severissime. Quindi questa è sempre la polemica politica. L'unità Grillo salta a destra, la strategia sull'immigrazione, rabbia e paura e uso politico dell'effetto panico. Addio al Movimento 5 Stelle degli esordi, è in gara con la Lega. Vincere l'indifferenza invece è il titolo dell'Avvenire, il quotidiano della CEI. Altri giornali con titoli differenti invece, il giornale Allarme criminalità, così muoiono in Italia i commercianti onesti e indifesi. Brescia, due negozianti uccisi nel loro locale, avevano denunciato lo spaccio nella zona. L'Isola del Tesoro è invece il titolo del manifesto sull'assemblea regionale siciliana che replica la scelta di Napoli, acqua bene pubblico come da referendum, e continua l'inchiesta del Fatto Quotidiano, le regioni contro il governo, niente nuovi inceneritori, i governatori non li vogliono sul loro territorio. Derby carico d'oro, si parla invece sulla Gazzetta dello Sport, Milan e Inter e Sassuolo. Questi sono insomma i titoli di tutti i giornali o quasi. Nicola Graziani, iniziamo subito dalla Cina che scuote le borse e dobbiamo subito segnalare l'editoriale di Donato Masciandaro sul Sole 24 Ore. La banca centrale cinese otterrà un doppio obiettivo: stimolare nel breve periodo l'economia cinese e nel contempo accreditare il ruolo della moneta cinese come valuta mondiale. Con una terza ricaduta, la politica monetaria espansiva cinese rappresenta un ulteriore fattore di incertezza sul percorso di normalizzazione dei tassi di interesse mondiali. È come un inizio di battaglia nel più ampio scenario della cosiddetta guerra delle valute. Non bisogna mai dimenticare la natura istituzionale dell'attore della politica monetaria cinese: è una banca centrale generalista, cioè priva di un mandato specifico. Allora, quello che abbiamo capito è questo, che l'economia cinese stava arretrando, anche se era sempre in espansione, e a quel punto si gioca sui cambi. Quello che un po' erano poi le critiche degli anti-europeisti sull'euro, no? Una moneta troppo forte non favorisce le esportazioni. Poi sono arrivati i cinesi e fanno la stessa cosa. Quindi è un po' un dramma questo, un dramma monetario internazionale, globale. Tu hai citato l'euro, io cito la vecchia lira. Anni fa le nostre esportazioni si basavano moltissimo sul fatto che la lira era una valuta debole. Qua c'è da dire che i cinesi si sono un po' rimangiati gli accordi che ha preso con Obama alcuni anni fa prima di un G20 in Canada, cioè di collegare lo yuan alle grandi valute internazionali per così stabilizzare il sistema. Loro hanno un'economia che si sta raffreddando, non sta decrescendo, intendiamoci, cioè si sta raffreddando, aveva indici di crescita che facevano impressione, adesso non ci sono più. Il governo cinese, il sistema cinese si basa invece su una crescita costante, su uno sviluppo che si deve ancora ampliare dalla parte costiera alla parte interna del paese, non si può permettere di raventare troppo e quindi, come dire, usa anche qualche provvedimento al limite della correttezza. Ecco, una guerra delle monete che può mettere al tappeto anche Europa e Stati Uniti, l'analisi di Federico Rampini su Repubblica, e anche mossa sbagliata l'intervista di Lorenzo Binismaghi sempre su Repubblica, che dice non credo che possa funzionare perché l'economia mondiale è molto meno dinamica che in passato, l'Europa come sappiamo è quasi ferma e la ripresa in America è più sostenuta ma rischia di indebolirsi se il dollaro si apprezzerà troppo, specie dopo il rialzo dei tassi della Fed previsto per l'autunno. Per di più i cinesi se la devono vedere a questo punto con i concorrenti circostanti. Insomma, dice Eugenio Corsi, allora è stato un errore. E Binismaghi dice, a giudicare dal risultato sì, gettarsi nella guerra delle valute è sempre un rischio, se non altro perché si inducono le altre banche centrali a fare altrettanto, abbassando i valori delle rispettive monete. Un gioco micidiale che compromette la domanda mondiale, generando una deflazione planetaria perché, come sempre, a quel punto nell'accezione comune la tendenza al ribasso di prezzi e tassi continuerà e tutti continueranno a rinviare acquisti e investimenti. Insomma, questa mossa poi alla fine, la tesi di Binismaghi, rallenterà la crescita economica mondiale. Così secondo te, Nicola? Binismaghi coglie le segno quando agita lo spettro della deflazione. La crisi economica internazionale è anche una crisi che si accentua tutte le volte che si entra in un circuito deflattivo. Ci vorrebbe paradossalmente un po' più di inflazione, sennò si potrebbe finire in quel orribile baratro che era, per altri versi, logicamente la storia non si ripete mai completamente, però la crisi del 29-31 negli Stati Uniti diventò una crisi deflattiva e bloccò la produzione. Binismaghi ha capito perfettamente qual è il rischio, cioè i cinesi per gli interessi loro particolari di un immenso mercato, ma di un mercato che non è ancora il mercato globale, stanno rischiando di mettere di far saltare la ripresa economica generale. Gli Stati Uniti hanno una situazione economica per cui un quadrimestre le cose vanno meglio, quello successivo magari vanno un po' peggio. Se noi mettiamo su questo quadro non ancora stabile un elemento di forte instabilità come questo, logicamente si compromette tutto. Ora c'è il libero mercato che fa un'analisi su quello che succederà per quanto ci riguarda. La Cina svaluta, paga il lusso italiano. La banca centrale taglia del 2% il valore dello yuan per favorire l'export, penalizzati i consumi interni, più cari i beni importati. A rischio il Made in Italy, che vede calare i ricavi e l'auto tedesca. Male in borsa Luxottica, meno 2%, Ferragamo, meno 5% e Moncler, meno 3%. Ecco, ci ricorda un po' quello che è successo invece con l'embargo contro la Russia, pure lì il nostro Made in Italy, il nostro mercato del lusso è stato penalizzato perché comunque è molto appetibile per i russi. Insomma, queste misure da una parte internazionali contro la Russia per il caso Ucraina e per la guerra in Ucraina, dall'altro invece queste misure prese dal governo centrale cinese alla fine comunque vengono sempre a penalizzare le nostre esportazioni. Purtroppo sì, perché noi abbiamo puntato molto sul lusso, sul un genere di prodotti che vanno per un mercato alto ma che sono inclini a saltare in momenti di crisi. Purtroppo da questo punto di vista è inevitabile. Se noi avessimo un'economia incentrata su, che ne so io, i trattori, questo non ci succederebbe. Bisogna capire un po' quello che è successo quando l'euro valeva 1,6 rispetto al dollaro, no? Comprare anche via internet dei beni di lusso americani era diventato diffusissimo in Italia, si è andati verso la parità e tante cose di alcune famose ditte di abbigliamento americane non si comprano più, è inevitabile in questi casi, ma il problema che noi ci colpisce particolarmente, ma il problema forse è ancora più grosso di quanto noi non ce lo immaginiamo, perché se la Cina entra in un momento di instabilità economica se ne risentirà in maniera ancora più pesante. Diceva l'Economist questa settimana che questa estate per le autorità cinesi è importante come l'estate del 1988, quando si dovette scegliere fra le riforme di Deng Xiaoping e un accentramento autocratico del regime comunista. E non si scelse nulla, si arrivò a piazza Tiananmen e si ebbe l'autocrazia che trionfava alla fine sulle spinte liberiste e liberali del mercato. Non siamo forse a quel livello, però se l'Economist dice una cosa del genere è bene rifletterci. Tutto questo mentre c'è il primo accordo tecnico con la Grecia, che ha fatto tremare tutta l'Europa per un'intera estate, soprattutto poi abbiamo visto dei casi limite, trattativa notturna, poi sì al memorandum da 85 miliardi di euro, scrive il Corriere della Sera. Venerdì l'esame dell'Eurogruppo, Atene si impegna a 35 azioni prioritarie su pensioni, fisco e privatizzazione. La telefonata Tsipras Merkel. Ecco, la borsa ellenica festeggia e chiude con un rialzo superiore al 2%, l'avanzo del surplus primario che Atene deve raggiungere nel 2015 è lo 0,5%, 50 miliardi l'ammontare delle privatizzazioni che la Grecia deve realizzare secondo il terzo piano di salvataggio. E poi, sempre sul Corriere della Sera, c'è una bellissima intervista di Antonio Ferrari a Petros Markaris, che è lo scrittore, che dice: gli ultimi 8 mesi sono stati un inferno, ora può iniziare una nuova stagione. Il giornalista Grecos dice: Varoufakis è stato un disastro, però evitiamo la tentazione delle urne. Un'utopia pensare che la piccola Grecia potesse cambiare l'Unione, bisognerà vedere se i greci si adatteranno alle misure concordate con i creditori. Quindi insomma abbiamo risolto il problema della Grecia, scoppia il caso Cina. Ecco Nicola, non si sta mai tranquilli sui mercati. Da segnalare. Per definizione i mercati sono una cosa, come dire, estremamente volatile, no? Per definizione. Sai, la Grecia non poteva immaginare di arrivare a cambiare per l'appunto la natura dell'Unione Europea. Ricordiamoci che comunque forse un po' più di sensibilità politica da parte dell'Unione Europea avrebbe evitato qualche tensione di troppo che c'è stata. L'accordo, per quello che si legge, pare un accordo abbastanza equilibrato, ci sono 35 misure più o meno draconiane che verranno introdotte nel sistema greco, soprattutto sul sistema pensionistico del welfare. È la prima buona notizia dopo mesi di tensioni in cui sembrava non solo che la Grecia potesse uscire dall'euro, ma che potesse saltare tutto il sistema euro. Si sta trovando un equilibrio anche su quello, meno male. Il problema, secondo appunto come diceva il Corriere della Sera, è evitare le elezioni anticipate, perché in questo momento abbiamo un governo che da sinistra sta garantendo un'azione moderatrice. Ecco, no, poi diciamo una cosa invece, sempre riguardo la Cina, che anche guardando poi a quello che è il nostro mercato interno, abbiamo detto anche la Germania, no? La roccaforte del rigore, sarà poi penalizzato perché soprattutto pagherà anche la frenata d'acquisti, soprattutto riguardo l'auto tedesca, e quindi anche Angela Merkel avrà i suoi problemi. Segnaliamo anche sul Sole, prima di dare la linea alla regia, gli effetti della svalutazione cinese, la voluntary disclosure, nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate, e ricordiamo l'estate con il tuo amico Sole, oggi le novità sull'apprendistato e sulla perequazione delle pensioni. In primo piano. E cambiamo argomento, profughi, nuova strage, si apre il fronte greco sul Corriere della Sera, e abbiamo detto anche sul Libero, Vaticano vietato ai profughi, e anche sulla Stampa. Leggiamo a questo proposito le urla inutili sui migranti, l'editoriale del Corriere della Sera di Ernesto Galli della Loggia. Quando impreca contro l'invasione degli immigrati, la destra italiana sembra fare di tutto per dimostrare che la cifra essenziale resta il vuoto politico. economico, l'inesistenza di idee e di programmi. Che cosa propone di fare Matteo Salvini, ad esempio, quando l'SOS di una zattera di disperati semisommersa dalle onde arriva ad un nostro centro radio? Ce lo dica in concreto, non a chiacchiere. Che cosa si dovrebbe fare? Lasciarli affogare e chiuderla lì? Magari speronarli per fare prima? E una volta raccolti, dove li si porta? Indietro? Indietro dove? Sulle coste libiche, che sono terra di nessuno? Ecco, questo editoriale molto duro di Ernesto Galli della Loggia. Abbiamo con noi Nicola Graziani dell'agenzia AGI. Ecco, quest'estate sembra proprio caratterizzata ancora una volta dagli sbarchi, purtroppo, dai migranti che muoiono in mare e dalle polemiche tra centrodestra e centrosinistra in Italia. Ma sì, il tema degli immigranti è tale che purtroppo durerà ancora diversi anni, quindi prepariamoci anche altre estati di questo tipo. Il fatto è che Ernesto Galli della Loggia dice: di fronte all'evidenza della necessità di un soccorso non si può che soccorrere. Il caso di questa nave di sbarca di italiani che ha soccorso gli immigrati al COS, perché era stata attirata dalle pianti di bambini nella notte, ci fa capire che una qualsiasi persona normale, penso lo stesso Salvini, farebbe la stessa cosa, cioè vedi una persona che affoga, intanto la tiri fuori, no? e la porti a terra. Il fatto è che il problema non è di facile soluzione, e quello che stupisce è che spesso venga vissuto come una sorta di tifo, no? Accoglisti contro gli spingisti, questo è l'atteggiamento peggiore da entrambe parti. Il problema degli immigrati è che non puoi frequentare il flusso, diciamocelo, a meno che tu non intervenga ma con piani di sviluppo decennali nei paesi di origine. Quando Zaia legittimamente sostiene aiutiamo le case loro, l'idea è giusta, sarebbe bene intanto sentirsi, poter leggere sui giornali che sono stati fatti dei progetti di sviluppo magari dalle regioni italiane nei paesi di provenienza di questi disperati, perché non basta dire aiutiamo le case loro, bisogna aiutarli poi a casa loro. E dall'altra parte leggo anche un editoriale di Maurizio Belpietro sul Libero, che è all'opposto di quello di Ernesto Galli della Loggia, ovviamente. Gli immigrati pagano le tasse, dunque sono una risorsa, così spiegava ieri Repubblica. Il tema, dice Belpietro, non è quante tasse vengono pagate ogni anno dagli stranieri, perché la discussione interna intorno agli extracomunitari non riguarda coloro i quali vengono in Italia, lavorano e si assoggettano alle nostre leggi versando il dovuto al fisco. Il tema che fa discutere e allarma è il numero di clandestini, persone che non giungono in maniera regolare e che una volta sbarcati non si integrano, non lavorano, non versano un euro al fisco, ma usufruiscono di tutti i servizi, sanità compresa. Si fa infatti una grande confusione intorno al tema degli immigrati, cercando di fare di ogni erba un fascio, ma le cose non stanno come vengono raccontate. E poi Libero fa anche un sommarietto in cui dice: in Grecia la polizia di Tsipras picchia chi sbarca. Abbiamo visto quel video molto brutto, no? In cui c'erano i poliziotti greci che picchiavano. Poi sempre invece sulla Stampa c'è il racconto di Carlotta Dazzi, milanese, giornalista velista, in vacanza con il marito e i due figli di 9 e 11 anni su Decibel, una barca a vela di 12 metri. Ieri intorno alle 4 del mattino l'imbarcazione era all'ancora nella rada di Ormos Vati, sull'isoletta in faccia a Kos, circa 10 miglia dalla turca Bodrum. La famiglia dormiva, l'hanno svegliata le urla: sono una mamma, ho capito subito che c'erano dei bambini, racconta Carlotta al telefono. Siamo saliti in coperta, abbiamo messo in acqua il nostro gommone e a remi abbiamo raggiunto gli scogli. Erano tanti, confusi, disperati, 45 migranti siriani, tra quali donne, 11 bimbi sotto l'anno di età, un anziano con le stampelle. Ecco, qui c'è il racconto di questo, esattamente quello che dice Ernesto Galli della Loggia, no? Poi quando gli italiani trovano qualcuno in mare lo salvano. Ma perché siamo esseri umani tutti quanti, ti ripeto, non chi è che avrebbe avuto il cuore di lasciare quegli disperati praticamente a rischiare la vita su quegli scogli? Nessuno. All'emergenza si può rispondere solamente in un certo modo. Io vedo che comunque sull'argomento, per buttarla un po' sulla politica, si sta spaccando il Movimento 5 Stelle. Sì, infatti poi ci arriviamo. Perché ti voglio leggere quanto è scritto sulla Stampa. L'Europa ci restituisce oltre 12.000 immigrati, sono i vostri irregolari. Le riammissioni dal 1 gennaio sono aumentati Francia, Svizzera, Austria, i paesi più rigidi. E di questi viaggi sulla speranza sono impressionanti i numeri dei migranti che dal 1 gennaio al 31 luglio l'Italia ha dovuto riprendersi. 12.456. I paesi confinanti ce ne volevano restituire ben 16.305. Evidentemente abbiamo dimostrato che 4.000 non erano arrivati dall'Italia. In ogni caso i numeri fotografano il problema, la grande mobilità interna all'Europa di decine di migliaia di migranti che passando dall'Italia cercano di raggiungere mete precise. E io questo qui però non lo scrive Guido Ruotolo, ma lo dice Elisabetta Fiorito. Mi sembra il fallimento un po' di Schengen, no? Allora Grillo salta a destra per venire a quello che dicevi tu. Allora parliamo adesso anche di politica interna, perché da una parte parleremo del Movimento 5 Stelle e poi riparleremo della CEI. C'è un editoriale anche sul Foglio su questo tema. Grillo salta a destra, il titolo dell'Unità. La strategia sull'immigrazione, rabbia e paura e uso politico d'effetto panico. Addio al Movimento 5 Stelle degli esordi, è in gara con la Lega Pizzarotti. Più umanità, basta odio. E abbiamo anche il fatto che Grillo dà la linea dura, questo si legge invece sul Corriere della Sera, che dice: presto mi definirò, il leader corregge i suoi, attacca Mattarella, l'immigrazione continua a essere il terreno di scontro del Movimento 5 Stelle, il blog di Beppe Grillo alza il cartellino giallo nei confronti del senatore Maurizio Buccarella, di fatto sconfessa la linea morbida sull'accoglienza del tavolo immigrazione dei portavoce del Movimento 5 Stelle, che aveva proposto permessi di soggiorno temporanei e accoglienza diffusa. Ecco, Buccarella poi era quello che chiedeva l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, sì. Nicola, quindi sì. Questo tema all'interno del Movimento 5 Stelle è un tema che scotta da sempre. Sì, guarda, io ti dico, non mi stupisco che Grillo abbia fatto intendere cosa ne pensa sugli immigrati, perché l'aveva detto esplicitamente già un paio di anni fa. Non c'è una svolta, una sorpresa da questo punto di vista. C'è da constatare che il Movimento 5 Stelle, come tutti i movimenti che nascono in maniera, come dire, si proclamano fin dalla nascita dei movimenti antisistema, poi in realtà sui problemi concreti non hanno una base, un programmatica ben precisa. C'è da dire che Grillo, che ieri in un'intervista diceva per carità io mi defilo, in realtà sta dimostrando nei fatti che è lui che controlla ancora il Movimento 5 Stelle. In questo caso del senatore Buccarella è indicativo che nel Movimento 5 Stelle, se mi permetti la citazione orwelliana, tutti gli animali sono uguali ma alcuni animali sono più uguali degli altri. Grillo interviene per dire a Buccarella: tu non conti più dell'assessore di Torino, del consigliere comunale di Torino, conta poi alla fine lui. Questo, come dire, deve far riflettere un po' sulla natura democratica del movimento in certi momenti, laddove il movimento si trova a dover capire ancora di che natura sia. Sì, anche lui ha detto anche che vuole ritornare in televisione. C'è stato anche Pippo Baudo, il nostro eroe nazional popolare, che ha detto che non può ritornare in televisione, perché il momento che una persona scende, anche uno showman come lui, nell'agone politico, fonda un movimento politico che ottiene il 25% alle elezioni politiche, non si può pensare che a un certo punto lui prepari uno show, anche perché da quando è entrato in politica le voci maligne dicono che gli show di Beppe Grillo vanno un po' peggio, diciamolo. Può darsi, perché sei identificabile con una parte, non più con il tutto. Una parte molto importante del paese, perché ricordiamo 25%. Allora, sul tema degli immigrati, però ci sta qualche attacco, qualcuno si toglie qualche sassolino nei confronti della CEI, no? Sì. Il grande affare dell'accoglienza tra enti religiosi e confraternite, scrive il Messaggero. Una torta da 1 miliardo alla cui spartizione partecipa pure la Caritas. Il dirigente del centro di Treggiano arrestato per truffi e rimborsi. Migranti, Caritas sotto accusa, la Lega predica bene e razzola male, sempre il Messaggero. Nel mirino il malcato utilizzo di siti religiosi, la replica non sempre agibili, i Lombard ridicoli, Movimento 5 Stelle divisi ma Grillo linea dura. E su questo anche il giornale, l'affare clandestino delle coop cattoliche, dall'inchiesta mafia capitale spuntano i legami con Buzzi nel business dell'accoglienza, gli interessi della cascina nel CARA di Mineo e lo strano ruolo della Domus Caritas a Roma, e che nel business dell'accoglienza, anche quello a tinte fosche immortalato dall'inchiesta sul Mondo di Mezzo, scrive Massimo Malpica sul giornale, il ruolo giocato da coop bianche ed altre realtà cattoliche non è certamente secondario. Quindi 6 milioni fondi ricevuti dalla Domus Caritas da parte del Campidoglio nel corso del 2012. Quindi ecco, c'è questa polemica che monta anche nei confronti della Chiesa. Insomma, la Chiesa ha parlato, tutti attaccano la Chiesa. Sì, diciamo ci sono due cose che si bisogna dire innanzitutto. La prima è che la chiesa di Bergoglio, che è una chiesa che sta passando attraverso un momento di rinnovamento profondo, sta acquistando un'autorevolezza per cui ha più forza per dire le cose che non dice il Vangelo, no? Che il Cristo è il momento di scandalo. Ecco, la chiesa di Bergoglio, che è una chiesa che sta riscoprendo poi il messaggio evangelico delle origini, è un motivo di scandalo. Per quanto riguarda il business, guarda, ti dico, è chiaro che la presenza cattolica nell'ambito dell'accoglienza, che è un mondo dove girano parecchi soldi, la causa di mafia capitale purtroppo lo sta a dimostrare, dicevo, la presenza c'è, però sai, ti dico anche una cosa, la maggior parte di questi immigrati sono musulmani, no? E secondo te la Chiesa che interesse avrebbe a prendersi in casa decine di migliaia di musulmani per avere qualche euro in più? Cioè, secondo me l'argomento è un po' più sfaccettato di come non ce lo presentino, che poi magari ci siano delle strutture, quello purtroppo può capitare, intendiamoci. Sì, che insomma in questo business purtroppo ci siano delle strutture non chiare, ed anche da parte della Chiesa, questo qui sicuramente ci può essere benissimo. Non possiamo essere innocentisti o colpevolisti a priori noi. Devo dire che appena si parla del Movimento 5 Stelle c'è un'attenzione dei nostri radioascoltatori. Allora, Sergio ci scrive negli sms che potete mandarci al 349-238-6666: ho paura che non abbiate capito la natura del Movimento 5 Stelle. E nel Movimento 5 Stelle un attivista e un consigliere non hanno meno importanza di un deputato. Questo dice Sergio, mentre secondo Nicola la tesi è un po' diversa, che noi, c'è stata l'impressione che quando parli poi Beppe Grillo, sì, il consigliere e l'attivista hanno la stessa importanza magari del deputato, ma non di Beppe Grillo. Ecco, forse questo era quello che volevamo segnalare. Sergio, salutiamolo visto che ci ha scritto. Pronto? Sì, dimmi Nicola, che cosa ne pensi? Sì, è vero, sembra, però visto che si parlava di Chiesa, la realtà in cui alcuni movimenti millenaristici non sono cattolici, il fondatore è uno fra tutti, poi però quando parla il fondatore tutti gli altri si adeguano, no? Il ruolo anche carismatico in senso tecnico di Beppe Grillo, guarda, in senso weberiano, è tale per cui poi alla fine inevitabilmente la linea l'ha detta lui, ma non perché sia un autocrate, è che essendo la persona alla quale tutti fanno riferimento da un punto di vista anche ideale, la sua parola inevitabilmente, come dire, chiude il dibattito. E questo non vuol dire che non ci siano poi dei voci di dissenso o un dibattito all'interno, basta vedere Pizzarotti, no? Però la natura del movimento, proprio perché non è un movimento strutturato, è tale per cui quando parla il fondatore poi alla fine è difficile di dire no. Allora, sempre su questo tema, sui migranti, il Papa fa il Papa, non il politico. Monsignor Galantino farebbe invece rileggersi il Concordato, un editoriale del Foglio, l'Avvenire, vincere l'indifferenza e Sei con noi e molti di più di Antonio Silvio Calò. Diamo la linea al traffico. In primo piano. E cambiamo argomento di nuovo. C'è questa telenovela all'interno del Partito Democratico sulle riforme. Oggi è Eugenio Scalfari che scrive, risponde di nuovo a Giorgio Napolitano. E su Repubblica dice chiaramente troppi poteri in mano al Premier. Ecco perché la riforma va cambiata. proprio scrive questo: i due disegni di legge dei quali stiamo ora parlando, elettorale e costituzionale, se sarà approvato e sulle quali le nostre opinioni divergono, produrranno un mutamento talmente radicale che, a mio avviso, scrive Scalfari, equivale ad una riscrittura del contesto costituzionale che soltanto una nuova costituente potrebbe affrontare. Quindi tutto avviene con un sistema di voto proporzionale, insomma un premio di maggioranza che dà al premier troppi poteri. Scusate, stava parlando di un'altra legge. La replica di Scalfari quindi a Napolitano: gli Itali, come il DL Boschi, trasformano radicalmente la struttura politica. Premierato e maggioranza che raggiunge il 40% dei voti espressi, mai successo dal dopoguerra. Poi altro, sempre telenovela all'interno del PD: voglio bene a Gianni Bobbo, di Bobbo Stein, il disegnatore di Bobbo, non mi fido di Renzi, ma è più bravo di tutti e ora deve governare. Sappiamo che ha bacchettato la minoranza PD. Il PD si aggrappa a Silvio, questo qui invece sul Libero: salva tu le riforme, appello dei renziani a Forza Italia e minaccia ribelli Dem, pronti al voto anticipato, il Cavaliere sì al dialogo ma nessun patto. Poi invece sempre sul Giornale scrive Renato Brunetta: Napolitano il rituale scorretto. Ricordiamo, Renato Brunetta è il capogruppo alla Camera di Forza Italia, fa politica e vuole intimidirci. Il presidente emerito non deve scendere nell'agone elettorale, lo dicono i costituenti, le sue ripetute esternazioni sono contro Forza Italia, basta tirare grasso per la giacca. Renzi sprona i suoi, sempre sul Giornale, ma sull'Italicum chiude a Forza Italia, mentre invece sul Messaggero c'era scritto che apriva Forza Italia al premio di coalizione. Il Leader e la polemica della società civile sul Corriere della Sera: è insopportabile la retorica che la contrappone al partito come se questo fosse incivile. Le parole del segretario sull'Unità in difesa delle scelte sul Consiglio di Amministrazione Rai, ieri ha dato una battuta molto renziana, no? L'unica cosa non di sinistra che ho fatto è stato vincere le elezioni. Insomma, ci sono questi numeri al Senato oppure no, Nicola? Ma sono numeri estremamente ballerini, perché poi abbiamo visto anche in passato che qualche volta la minoranza del PD poi perde qualche pezzo, non so se questo sarà se verificherà anche questa volta. E tu hai ragione, è un po' una telenovela, anche perché riempie i giornali di agosto, quando oggi è il 12, no? Quando magari non ci sono molte altre cose da scrivere. Bisogna fare diverse osservazioni a riguardo. Innanzitutto qua pare che tutti vogliano creare un incidente, poi nessuno lo vuole. Noi abbiamo la minoranza del PD che sta dicendo sì, noi voteremo, però il governo va salvato. Poi all'interno del PD c'è questa un po' stucchevole polemica fra l'Unità, Cuperlo e Staino. È un partito che ancora deve digerire, secondo me, per dirla chiaramente, il fatto che nasca dalla fusione di due anime politiche forti, tutte e due legittimamente, come dire, aspiranti a un ruolo egemonico all'interno del centro-sinistra, e che ancora non hanno trovato l'amalgama, come si diceva una volta. Renzi poi ci mette un po' del suo, perché il suo stile politico oggettivamente è molto personalizzato e molto leaderistico. Questa battuta che ha fatto sulle elezioni che lui riesce a vincere e gli altri no, chiaramente non è destinata a pacificare gli animi, no? Comunque come hai detto te, ci sono i temi d'agosto, no? Allora ti riporto al fatto che appunto purtroppo la doppia esecuzione a Brescia è il titolo del Giornale: così muoiono in Italia i commercianti onesti in difesa, due negozianti uccisi nel loro locale, avevano denunciato lo spaccio nella zona. Ucciso il pizzaiolo antispaccio, i killer avrebbero urlato il nome del titolare del locale, Frank, prima di sparare, colpita a morte anche la moglie. Due assassini in fuga, due persone uccise a colpi di fucile per un giallo inquietante che parte con un agguato senza scampo alle 10:20 di ieri davanti a un ristorante di Brescia. Ecco, quello che sorprende è il fatto che avviene davanti a un ristorante di Brescia, no? Noi siamo purtroppo abituati che queste cose avvengano magari al sud, esatto. Con una criminalità organizzata molto forte. Invece si sta spostando anche questa emergenza al nord. Rebetta, noi abbiamo Roma che è mafia capitale, quello che capita a Brescia è indicativo, magari non è c'è del crimine organizzato in senso stretto, in senso mafioso, però è un imbarbarimento della società, quello è sicuro, cioè il metodo criminale è tale per cui si passa da quelle che erano, che ne so io, le bande che facevano le grandi rapine nella Milano degli anni 60 a un modo di operare che è ancora sicuramente più spietato ed è più soprattutto radicato nel territorio. Questo è il vero problema, la vera emergenza. Sta emergendo il fatto che la società italiana, indipendentemente dalla latitudine, è una società dove si vive in maniera oggettivamente mafiosa. E oggettivamente violenta, perché per esempio sentiamo: Ilaria ha sciolto la droga e l'ha bevuta. Messina, il racconto dei ragazzi che erano con la giovane trovata morta in spiaggia. Sì. Ecstasy cattiva ed antikit della presunta spacciatrice. Altra tragedia in Campania: muore in discoteca colpito da un masso. E un'intervista di Alessandra Rachi sul Corriere della Sera: anfetaminici e alcol, il cocktail peggiore, ormai lo fanno anche i dodicenni. Questo è il parere di Elia Del Borrello, che è l'esperta. Ora, Brescia, sempre anche qui coniugi titolari di una pizzeria, è stata un'esecuzione. Ecstasy cattiva e alcol, così è morta Ilaria, ma noi non c'entriamo, su Repubblica. E poi invece abbiamo visto che il ragazzo che era morto in discoteca, il 18enne, l'autopsia su Lorenzo ignorava di avere una grave cardiopatia, quindi questa qui è veramente una disgrazia. Però voglio approfittare di te, che sei anche un esperto di politica estera, per segnalare un editoriale di Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi. Hitler e Stalin cancellavano i loro massacri, perché l'ISIS invece diffonde i suoi sul web? La tesi di Pierluigi Magnaschi è il fatto che l'ISIS, al contrario dell'URSS di Stalin, dell'Unione Sovietica di Stalin o della Cina di Mao, non è interessata ad essere popolare per tutti all'estero, ma nella sua propaganda verso il resto del mondo si propone invece di interloquire solo con i giovani musulmani potenzialmente interessati alla sua battaglia contro gli infedeli. Obiettivo dell'ISIS in Medio Oriente è, seminando terrore via web, di far fuggire senza combattere i non musulmani, in particolare i cristiani, ma non solo. E l'ISIS non sa usare solo le armi, ma soprattutto la comunicazione, che è evidentemente gestita con grande abilità da chi sa dove e come colpire per portare acqua al suo mulino. Ecco, quindi questa è una tesi abbastanza singolare di quello che sta succedendo con l'ISIS, no? Perché noi siamo abituati, Pol Pot, Mao, Stalin coprivano i loro massacri, perché l'ISIS non li copre? Ma la tesi è anche affascinante, non è solo originale. Io aggiungerei un fatto: l'ISIS nasce in un ambiente musulmano arabo soprattutto, e il culto del sangue, dello spargimento del sangue, appartiene molto alla cultura medio orientale. Cioè, se noi andiamo a leggere le cronache dei massacri all'epoca dei crociati, come le raccontavano lo stesso massacro i musulmani, come raccontavano i cristiani, era molto diverso, perché c'era un indulgere su certi particolari da parte araba che noi non abbiamo mai avuto nella nostra storia. Questo fa parte del fatto, anche come dicevi tu prima, che però è una campagna di comunicazione ben pensata, cioè si trasmette l'idea dell'invincibilità dell'ISIS anche attraverso questo modo di essere, di fare, di operare. Guarda, se tu vai a vedere le cronache di Ali Mahdi e il tempo di Gordon Pasha, siamo nel 1860, erano esattamente le stesse cose, che solo che si facevano attraverso la lettera e non attraverso la televisione. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, c'è il fatto che l'ISIS sta compiendo quella che secondo loro è una guerra santa con i metodi che conoscono loro e con la propaganda come la sanno fare loro. Quindi non vuol dire che questo li renda invincibili, anzi probabilmente sono destinati a soccombere, ma lo fanno per attrarre le masse arabe dalla loro parte. Allora, ringraziamo Nicola Graziani anche per questa analisi internazionale dell'AGI e dell'Agenzia Italia, quindi un collega, come abbiamo sentito, molto preparato su vari campi. Grazie Nicola. Grazie a voi. Invece io cerco la mia amica Irene Zerbini, che è a Milano, perché noi siamo una a Roma, una a Milano. E tu sei a Roma, Betta, vi abbiamo seguito e ci sono moltissimi sms relativi alla tua rassegna stampa, ma il governo, ti leggo l'ultimo, attimo, perché non fa leggi più stringenti contro la malavita? Alfio, questo è arrivato da Perugia. E poi ancora, mi sembra ingiusto dire che la Chiesa Cattolica non avrebbe interessi ad accogliere gli emigrati perché musulmani. La storia e la testimonianza della carità della Chiesa hanno messo al centro l'uomo. Te li rimbalzo, Betta, ci risentiamo domani mattina per la tua rassegna stampa. Un saluto a Betta Fiorito, giornalista parlamentare che cura la rassegna stampa in questi giorni, e al suo ospite Nicola Graziani. Prostituzione senza sfruttamento, è possibile? Questo è uno dei temi caldi in Italia, c'è un grande dibattito e noi ne parleremo a spunti di vista, il tutto dalle 8:30. Potete chiamare 800 24 0024, i messaggi SMS 349 238 6666. La linea ora va al GR.